con l'attrice Sara Pallini, che sarà in scena a Roma al Teatro di Documenti dall'11 al 14 ottobre per il debutto nazionale dello spettacolo Per Giulia su testo di Dacia Maraini. Sara, ben trovata. Buonasera agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci racconti lo spettacolo? Sì, allora, questo spettacolo intitolato a Giulia Carnevale parla di questa magnifica ragazza che era una brillante studentessa di architettura, ingegneria edile e architettura, che stava per laurearsi e purtroppo ci ha lasciato. E la cosa bella però è che poi lei aveva tante idee, tanti progetti, alcuni dei quali sono stati ritrovati, e uno di questi, in particolare, come viene raccontato in questo spettacolo, è stato proprio realizzato, ma non è l'unico, ed è l'asilo di Onna. Per un puro caso del destino, lei la notte del 6 aprile lasciò in macchina il computer, cosa che in genere non faceva, che se lo portava sempre su in casa, e per questo il computer è stato ritrovato con all'interno i suoi bozzetti, le sue lettere, tutte le sue cose private, e questa è una cosa che dà un meraviglioso senso di continuità, di speranza oltre la vita su questa terra. Oh, ricordavi il 6 aprile, stiamo parlando chiaramente del terremoto dell'Aquila. Sì, di cui l'anno prossimo, nel 2019, ricorre ormai già il decimo anniversario. Come hai incontrato questo testo? Io l'ho interpretato diverse volte in forma corale insieme a altre quattro attrici che facevano gli altri personaggi, no? Sua madre, la sua migliore amica, ne erano due di migliori amiche nel testo della Maraini, e l'insegnante del liceo e poi ovviamente Giulia che interpretavo io e come scritto dalla Maraini su tre livelli, cioè Giulia in forma di spirito che ci parla dall'aldilà, ma come se non ci fosse una distanza, no, tra il mondo dei vivi, il mondo dei morti. E poi Giulia, come lei scrive nel suo diario da adolescente che è stato ritrovato dopo la sua morte, quindi Giulia ragazza e Giulia adulta, 24 anni, giovane donna, e anche proprio negli istanti poco prima di morire, diciamo. Successivamente questo spettacolo che è andato in scena anche a Dublino con la regia di Dacia, io in accordo con lei e i suoi genitori ho scelto insieme alla regista Yolanda Salvato e Federica, la compositrice, delle musiche di farlo in forma di monologo perché sentivo l'esigenza di incarnare io tutte queste voci, questi personaggi che nel corso degli anni ormai un po' avevo vissuto, ho conosciuto i genitori di Giulia, si è creato un legame, insomma, così. Come vi siete contattate con Dacia? Con Dacia feci un provino quasi 10 anni fa e abbiamo iniziato a lavorare con altri spettacoli, non era questo per Giulia, Ah, ok. quello con cui il primo che feci mi pare fosse Passi affrettati, un testo che parla della violenza delle donne, sempre comunque un testo, sono tutti quanti Sì, sì. testi civili, Sì. E con un forte senso civico e umano, come anche cosa ti aveva convinto maggiormente di questo nuovo testo? io anche per questo fui scelta da lei per fare il Ah, ruolo di ok. Giulia e poi nel corso delle varie repliche in forma corale sentivo tutte quelle voci mi appartenevano, mi riconoscevo nell'insegnante che parla di Giulia come una ragazza che ha sempre voglia di studiare, che è solare, non per questo però è frivola, è come se avesse l'urgenza di vivere, quindi questo rapporto allievo maestro mi riconoscevo ovviamente nel ruolo della madre. Anche se io non sono madre, sono tante cose personali, ovviamente nel ruolo della sua migliore amica, perché c'è sempre qualcuno di noi che ha perso qualcuno di caro, e E poi ovviamente questa sua personalità così forte, tenace e piena di vita, veramente. Senti, finora le altre repliche in cui eri in scena con altre attrici, che risposte hanno avuto di pubblico? Che reazioni hanno suscitato? Sempre buone, perché comunque al di là della bravura poi degli interpreti, no? Che siamo noi attori, comunque quando un testo è bello, e questo della Maraini come altri, ma più di altri, è allo stesso tempo c'ha più livelli, è sia lirico, sia contemporaneo, appunto, no? Quando si fa la ragazzina adolescente, poi invece in certi momenti quando parla in forma di spirito è poesia pura, quindi comunque ha sempre avuto un'ottima eco. Ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? C'è una pagina Facebook, un sito Sì, internet? assolutamente, assolutamente. C'è la pagina su Facebook per Giulia Teatro di Documenti e il sito no, stiamo lavorando per questo. Allora, ricordiamo il debutto nazionale dello spettacolo Sì. Per Giulia di Dacia Maraini con Sara Pallini in scena a Roma al Teatro di Documenti dall'11 al 14 ottobre. Sara, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi per questo vostro lavoro di musica e di azione civica. Ciao, a presto. Ciao, a presto.